Il gastronauta di Davide Paolini. Una buona giornata da Davide Paolini. Ebbene, oggi parleremo del quello che io chiamo la Cenerentola del cibo. La Cenerentola del cibo è il baccalà o stoccafisso, e poi parleremo appunto di che cos'è il baccalà, perché si chiama così e perché invece stoccafisso, e anche andremo a vedere perché in Veneto lo stoccafisso si chiama baccalà. Ma perché Cenerentola? Perché il baccalà fino a ieri, anzi fino diciamo qualche anno fa, era un po' un alimento per poveri, cioè sì, un alimento povero, non per poveri, mi correggo, e giustamente, e si trovava nelle fiere, si trovava anche a prezzi abbastanza abbordabili. Poi all'improvviso negli ultimi anni questo prodotto tra virgolette povero all'improvviso è comparso su tutti i menù dei ristoranti stellati, e allora io mi chiedo se è dovuto questo al costo, oppure se è dovuto quindi alla crisi, oppure se all'improvviso si sono scoperte le qualità di questo pesce eccezionale, che può essere appunto presentato in tantissime maniere. Pensiamo al Portogallo, dove si dice che si può cucinare in 365 maniere, una al giorno diversa. Ebbene, quindi è un qualcosa di molto interessante questo prodotto, e oggi lo andremo a scoprire anche storicamente, con anche aspetti molto ma molto divertenti e bizzarri. Io voglio proprio iniziare da questo, voglio iniziare da uno chef ristoratore, Antonio Chemello. Buongiorno Chemello. Buongiorno a lei. Ma non solo con Chemello io parlerò diciamo come cuoco, ma soprattutto anche perché Chemello è autore di alcuni viaggi proprio alla scoperta del baccalà, uno addirittura in vela e un altro in macchina. Bene, certo. Chemello, come mai lei ha pensato di fare questi due viaggi sulla traccia del baccalà? Beh, intanto sono pienamente d'accordo con tutto quello che ha detto lei, e sottoscrivo pienamente il discorso che mi ha fatto col baccalà, perché prima la volta era il piatto dei poveri e adesso invece è un piatto diciamo conosciuto e prelibato. E se mi permette, prima di parlare di viaggi, vorrei anche dire che questo, oltre a lei che ne parla, alla televisione, ai giornali e ai ristoranti che lo stanno facendo anche stellati, vorrei dare un merito, se mi permette, anche alle varie confraternite che esistono in Italia. Una fra tutte, se mi permette, perché è la mia, è quella del baccalà alla vicentina. Ma certamente, ma si figuri, chapeau, perché è stata quella che negli anni ha portato avanti questo prodotto mentre tutti gli altri l'avevano dimenticato. Esatto, siamo stati in televisione, siamo stati nei giornali, e anche per questo che 7 anni fa, quasi 8, nel 2007, assieme a un gruppo di amici, sempre più che sponsorizzato, diciamo benedetto dalla confraternita del baccalà alla vicentina, abbiamo ripercorso questa rotta storica. Perché il baccalà, adesso noi qui in Veneto chiamiamo lo stoccafisso baccalà. Ecco, ecco, precisiamo. Sì, c'è il baccalà alla vicentina, c'è il baccalà mantecato alla veneziana, invece in cucina usiamo lo stoccafisso. Baccalà perché non c'è un perché, anche poi so che sentirete il mio amico e confratello Otello Fabri, che è un grandissimo storico della cucina. Sembra che non ci sia proprio un perché. Sembra perché noi in Veneto l'abbiamo sempre chiamato baccalà, ma comunque preferisco che ne parli lui di queste cose. E, dicevo, siamo partiti da Venezia in barca a vela per ripercorrere questa rotta storica. Per farla breve, nel 1431 parte Pietro Querini, un nobile veneziano che andava più che altro a commercializzare, perché Venezia era come Genova, le repubbliche marinare commercializzavano. Partirono da Creta, la vecchia Candia, che era un possedimento veneziano, con una barca a vela, commercializzavano malvasia, spezie, eccetera. Hanno avuto la sfortuna per loro, ma anche la fortuna, di naufragare in quel di Golfo di Biscaglia. La corrente del Golfo ha permesso a una scialuppa con solo 11 membri, perché gli altri perirono tutti, di approdare in queste meravigliose isole delle Lofoten e soprattutto nell'isola di Rost. Lì, che siamo gemellati con San Drigo, proprio patria del baccalà vicentina, lì vengono rinfocillati, rimangono lì 100 giorni, scoprono questo pesce incredibile, più che questo pesce, perché era conosciuto il merluzzo e anche il baccalà, scoprono questo nuovo metodo di conservazione che è lo stoccafisso. Dopo 100 giorni rientrano a Venezia e sembra che da lì si sia diffuso in tutta Italia. Ripercorrendo i viaggi, ne abbiamo fatto in 2 mesi, assieme a 4 amici, Furio, Gigi e Arnaldo, siamo partiti da Venezia in Barcavela, abbiamo ripercorso tutta la rotta che ha fatto il Querini, abbiamo avuto la fortuna di non naufragare e siamo arrivati lì a Roste, dove siamo stati accolti dal sindaco, eccetera, eccetera, una festa incredibile. Mentre nel 2013, per festeggiare i 25 anni della confraternita del Baccalaureato Vicentina, siamo partiti con una 500, abbiamo fatto tutta la rotta su fino a Roste e poi siamo rientrati in 20 giorni toccando tutti i luoghi storici di Pietro Querini, siamo stati anche a Londra, che nel 1432 c'era un'ambasciata veneziana, e abbiamo ripercorso queste rotte incontrando sindaci, autorità, ma soprattutto anche enti del turismo. Senta che mello, se no... Scusi se mi prolungo. No, le volevo chiedere, ma durante questo viaggio avete mangiato baccalà o no? L'abbiamo fatto conoscere soprattutto. abbiamo fatto conoscere il baccalà, ma anche i prodotti veneti, italiani, abbiamo fatto una bella promozione. Senta, ma a Rost? Quasi 9.000 chilometri. Senta, a Rost, come si mangia il baccalà? A Rost, adesso, dopo circa 20 anni che li frequentiamo, ma anche perché, ad esempio, una volta arrivava il traghetto una volta a settimana, ora arriva 2 volte al giorno, quindi le cose sono cambiate. All'inizio lo mangiavano solo bollito, che era comunque eccezionale, perché lo stoccafisso mangiato lì bollito, non so perché, deve essere l'aria, deve essere l'acqua, deve essere il posto, non lo so, ma ha tutto un altro sapore, ha tutto un altro profumo, ha tutto un altro gusto che quando lo cuciniamo noi, sebbene che lo facciamo discretamente bene anche noi. Bene, grazie Chemello. Chemello, ristorante Palmerino a Sandrigo, una delle capitali del baccalà. Vorrei poi ricordare Mammola, vorrei ricordare poi anche una parte della Toscana di Livorno, dove il baccalà sicuramente è uno dei piatti più prelibati. Ebbene, io ora con noi anche un grande esperto di baccalà, che non ha fatto il viaggio in vela, ma cucina baccalà alla vicentina, ma sicuramente se ne intende di baccalà. Buongiorno Roberto Ghezzi. Senti Roberto, volevo chiederti questo, ma di baccalà ce ne sono di diversi tipi? Sì, dipende dalla zona, innanzitutto due sono le tipologie di cod che possono essere chiamate baccalà, il cod Gadus Morua, che viene pescato in Atlantico, e il cod Macrocephalus, che viene pescato in Pacifico. Hanno caratteristiche di per sé simili ma abbastanza differenti per spessore della carne, per consistenza e taglia. Indubbiamente sono tutti e due prodotti abbastanza validi. Io prediligo il Gadus Morua islandese, e tutti e due possono essere utilizzati più o meno con le stesse ricette. Il gastronauta. Ecco, riprendiamo a parlare di baccalà e stoccafisso. Abbiamo con noi Roberto Ghezzi di Schooner, una società che distribuisce baccalà in Italia e in porta, e lui è un grande selezionatore. Roberto, io ti ho interrotto quando tu facevi il distinguo sulle specie di pesce, e però io ti chiedo anche, oltre a questo di cui stavi parlando, la provenienza, perché tu hai parlato di Islanda, quindi da quali paesi, ecco, in quali paesi arriva oggi sui mercati il baccalà o stoccafisso? Allora, diciamo che al di là di questa grande differenza delle due famiglie, poi ci sono le varie provenienze che hanno metodi di lavorazione anche diversi fra loro, perché la tipologia del baccalà può essere secco, come prima veniva presentato il baccalà per noi toscani stoccafisso, e può essere secco, salato secco e salato, per cui la provenienza del secco arriva esclusivamente dalle Lofoten, perché solo lì c'è il clima, il microclima adatto nell'incontro fra la corrente del Golfo e le aree fredde della Norvegia, c'è il microclima adatto, le isole sono abbastanza piatte, vento, per essiccare il prodotto. Poi abbiamo il salato secco, che è viene consumato prevalentemente in Portogallo, e tutti conoscono il Portogallo per la sua per essere famoso per il baccalà e le 365 certo. Oppure il salato fresco, cioè a dire salato senza nessuna essiccazione, e le provenienze possono essere Islanda oppure Norvegia. La Norvegia la fa sempre da padrona, nel senso che produce le quantità maggiori, e poi ci sono delle lavorazioni prevalentemente con il macrocephalus, che viene importato il prodotto congelato dall'Alaska e viene lavorato in Europa. Ecco, Roberto, c'è questa San Giovanni, il baccalà San Giovanni. Cos'è il baccalà? Il San Giovanni è un essiccato, però è un essiccato diverso da quello che viene dello stoccafisso, perché viene lavorato nel Gaspé, nella regione del Gaspé del Canada. In Canada, e ha questa particolarità: viene, anziché appeso, viene eviscerato, passato in acqua e sale, sciacquandolo 2 o 3 volte per, diciamo così, un risciacquo più profondo, e poi messo su delle stoie ad altezza di vita di una persona e adagiate sopra. Però il baccalà, cioè il pesce, viene aperto, cioè al libro. Ho capito. Bene, Roberto, io ti ringrazio perché ci hai dato così una lezione sul baccalà veramente importante. Grazie, ma ora voglio andare da un grande chef, uno dei più grandi chef italiani. Voglio andare a Senigallia, da Moreno Cedroni, e voglio chiedere a Moreno, innanzitutto, buongiorno Moreno. Buongiorno. Volevo chiedere a Moreno Cedroni questo, cioè il baccalà o stoccafisso, continuo a dirlo in questa maniera perché la differenza l'abbiamo già diciamo fatta, volevo chiederti, ha una grande duttilità, tant'è vero che dicevo prima che da piatto povero oggi si trova in quasi tutti i menù anche degli chef stellati o di locali che sicuramente non lo fanno in umido o in maniera molto semplice, diciamo è un pesce che si presta, vero, a una grande manipolazione. Ma guarda, io da sempre, tanto che poi ho coniato il baccalà che salo io, ecco. Quindi ho pensato, il baccalà è nato per queste grandi pesche lì alle isole Lofoten, quindi è nato quando non c'erano i frigoriferi, quindi adesso che ci sono i frigori io me lo salo per mio conto, quindi prendo i grandi gadus murua e me li salo, quindi hanno il sapore del baccalà ma non l'odore. E questo baccalà è andato in tutti i menù, sia qui alla Madonnina che al clandestino, quindi ne ho fatti di tutti i colori, l'ho abbinato, ma pensa, fino all'abbinamento con la rosa, ecco, penso che sia stato uno dei più riusciti, ma anche l'abbinamento con la lepre, ecco. Quindi ne ho fatte di tutte. Carne, ecco. hai fatto carne e pesce con la lepre? Sì, ma sai, nel menù, nel sushi selvaggio, quindi abbinamenti tra pesce e selvaggina, l'ho abbinato alla lepre, c'era questo confine sottile tra il mare e la terra, quindi era un piatto difficile, ma è riuscito. Nell'ultimo menù, nel British sushi, era naturalmente nel fish and chips, ecco, quindi ha una grande... per me è uno... delle materie prime che utilizzo meglio e di più. Ecco, ti faccio una domanda, ma non è personale, è un po', diciamo, tutto il mondo della ristorazione. Come mai, diciamo, solamente negli ultimi 2 o 3 anni la grande cucina ha scoperto questo pesce? Ma soprattutto perché, diciamo, un tipo di distribuzione di prodotti selezionati ha incominciato anche ad importare pezzi di baccalà, sia di salati, quindi facili da usare, e sia anche abbastanza alti. Poi tutti i congressi di cucina a cui siamo andati in Spagna ci hanno permesso di affinare le tecniche dai nostri cugini spagnoli, che senz'altro sono più raffinati, ecco, nell'uso del baccalà, ecco. O erano più raffinati. Ecco, bella questa battuta, questa erano, bene, poi ci ritorneremo, ma rimani con noi perché io ora voglio andare a Bassano del Grappa, voglio andare a Bassano del Grappa perché a Bassano del Grappa c'è un negozio veramente molto, molto, molto interessante, nel senso che vende solo baccalà e c'è un personaggio che del baccalà lo tratta da una vita. Buongiorno a Pierantonio Concato. Buongiorno dottor Paolini. Ecco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Pierantonio, lei ha un macchinario, si è inventato un macchinario particolare per la battitura. Sì. Ecco, a che cosa serve la battitura nel baccalà? La battitura serve per ammorbidirlo, per sfibrarlo, perché qui nel Veneto c'è questa usanza. In altre regioni invece si mette a bagno intero. Qui invece c'è battuto, sostituisce la battitura che una volta si batteva a mano con un martello di legno, mentre adesso c'è questo macchinario che si passa sotto due rulli e più volte finché si sente in mano quando è venuto morto, che si è ammorbidito. Senta, ecco. Pier Antonio, da quanti anni lei batte e ammolla il baccalà? Allora, mio papà da 35, io sono nato qui e sono ormai 50 anni, perché ho cominciato da giovane proprio. Sempre solo baccalà? Sempre con questo tipo. Prima c'erano altri prodotti, anche io ho eliminato tutto e sono trattato col baccalà e affini, sarde, acciallate, acciughe sotto sale. Ecco, che va sempre in coerenza con il baccalà. Senta Pier Antonio, sì, ma negli ultimi anni, visto che ha avuto, a me sembra che il baccalà abbia avuto un boom in questi ultimi anni. Sì, è vero. È vero, quindi? Sì. Quindi la gente sempre di più lo apprezza, perché una volta era considerato un piatto povero, ecco, allora non era considerato, mentre adesso è stato rivalutato, difatti è un piatto quindi ottimo. Ecco. È giusto che io lo racconti come la favola di Cenerentola, secondo me, perché ha avuto questa nobiltà. Ma le volevo ancora chiedere una cosa. I suoi clienti, io ho visto, perché una volta sono venuto da lei, ho visto i suoi clienti che tutte le chiedono delle ricette. Lei quale ricetta dà più volentieri? Guardi, questa è nostra qui alla Vicentina, perché siamo in provincia di Vicenza, dunque alla Vicentina, cioè cipolla, aglio, acciughe, un po' di formaggio grana, un po' di farina bianca, l'olio e un po' di latte, e si fa andare molto lento cuocere per un 3 orette circa e poi è cotto, ecco. Quindi è sempre la ricetta che va per la maggiore questa? Sì, da noi sì, qui da noi sì. Senta, dopo ce ne sono, perché in varie altre regioni è giusto che sia così, ogni regione ha la sua, però qui da noi è questa. Pier Antonio, quanto costa al chilo il baccalà? Beh, essiccato sui 50 euro al chilo. E un tempo costava molto meno? Sì, costava meno della metà, però adesso se si vuole la prima selezione, la prima scelta, bisogna andare su quella cifra, Bene. Anche adesso ce ne sono che costano meno, perché sono varie selezioni, varie scelte sono. Ecco, il suo da dove arriva, quello che utilizza? Dalle Lofoten, dall'isola di Rost. Che di solito è quella che ci serviamo. Quindi la casa madre. Sì. Grazie a Pier Antonio. Buon baccalà, torniamo a Moreno Cedroni. Moreno, hai sentito questo personaggio? Ma sì. Sai che sono stato allo Lofoten, eh? Ah, anche tu? Ho anche pescati, sì. Il merluzzo? Sì, il Gadus è stato un viaggio bellissimo, ecco, dove li essiccano, ma sai, poi mi hanno raccontato che quelli che essiccano e non c'è la giusta temperatura tra 0 e 2 gradi, quindi non hanno l'essiccatura ottima, o quelli che vengono male li chiamano qualità Africa e li mandano in Africa, diciamo, a un prezzo bassissimo, dove ci fanno delle zuppe, dei brodi, ecco. Ma è la trippa del baccalà, vogliamo parlarne? Ah, bello, piena di collagene, quindi a me fa impazzire, e in questo momento la metto nella cassola di pesce, no? Quindi ho fatto questo piatto con la trippa di baccalà, la trippa di coda di rospo, le cococcias del baccalà, quindi la parte qui sotto sotto la bocca, ecco. E sono parti incredibili, ma la trippa con il suo collagene, con la sua luntuosità, è emozionante. Senti, ecco. Vogliamo un po' rivalutare, perché molti, diciamo, quando si parla trippa di pesce un po' storcano la bocca, che la trippa di rana pescatrice è una prelibatezza anche. Sì, è questo stomaco, sai, poi nei rospi grandi, diciamo quelli da 30, 40, 50 kg, sono trippe da 1,5 kg, 2 kg, ecco, e che poi ben cucinate non hanno l'odore della trippa animale, ecco, e in bocca hanno questa consistenza quasi mielosa, ecco, che è incredibile. Sì, ricordano la trippa diciamo di manzo, di bue, di vitello, sì, insomma, sì, ricordano. Nella maniera più raffinata possibile, ecco, senza nessun odore collaterale. Ti voglio chiedere un'ultima cosa, questo baccalà alla vicentina, che per anni, diciamo, è stato un piatto leader, lo è ancora in alcune aree, e tu l'hai mai assaggiato? Dunque, l'ho assaggiato, sì, in qualche a Venezia, ecco. Ma ecco, io so che ci sono state anche delle evoluzioni di qualche chef, però in Veneto rimangono veramente tradizionalisti, specialmente a Vicenza, ed è giusto anche così. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di baccalà, di stoccafisso, e ora parleremo anche di stocco. Capiremo perché si chiama stocco. Abbiamo detto che ci sono delle capitali in Italia, c'è cioè appunto la provincia di Vicenza, c'è un'area della Toscana, e c'è un'area del Veneto, oltre diciamo Vicenza, insomma diciamo che anche Livorno in particolare, e lo stoccafisso e il baccalà hanno appunto dei centri dove è veramente un prodotto, lo è sempre stato, diciamo un prodotto principe. E ora andiamo in Calabria, andiamo a Mammola, che è veramente una delle capitali, la capitale dello stocco. E parliamo con Maria Letizia Longo, che è presidente del Consorzio Stocco di Mammola. Buongiorno Maria Letizia. Buongiorno. Senta, buongiorno a voi. Vediamo un secondo. Innanzitutto, voi lo chiamate stocco perché è l'abbreviativo di stoccafisso, no? Assolutamente sì. Però diciamo che il nostro stocco è registrato nelle produzioni agroalimentari tradizionali, nell'elenco ufficiale, come stocco di Mammola, proprio perché è un marcatore identitario del territorio nel quale viene trasformato e poi da secco diventa ammollato e poi viene anche trasformato come prodotto enogastronomico. Quindi ecco, è stocco di Mammola. Da voi da dove arriva la materia prima? Arriva chiaramente dalle isole Lofoten in Norvegia, e noi questa è una, diciamo, una tradizione che affonda le radici fin nel 1400, quando arriva per la prima volta, diciamo, in Italia, poi arriva con gli studenti calabresi che erano all'epoca all'università a Napoli, che lo portano nel proprio paese come possibilità di mangiare il pesce conservato chiaramente sotto sale e non nel frigorifero. Ai, qui diciamo andiamo contro un'altra diciamo leggenda, che è quella di Pietro Querini, che invece... Certo, chiaramente, però diciamo che in Calabria arriva per il tramite degli studenti all'Università di Napoli, che è lì che incontrano lo stocco, perché chiaramente non è arrivato in Calabria con Ma ci sono delle connessioni con Pietro Querini o assolutamente? Sì, chiaramente, perché Pietro Querini è colui il quale lo porta dalla sede principale, che appunto sono le isole, ecco. Lofoten. Ecco, però per il tramite dei nostri studenti all'epoca, quasi tutti studenti di medicina che andavano a Napoli per seguire i propri studi. Ho capito. Senta, e qual è la maniera tradizionale di mangiare lo stocco di Mammola? Mammola, qual è la migliore tradizionale? Guardi, tecnicamente lo stocco già diventa mammolese nel momento in cui viene ammollato, perché la trasformazione inizia con l'ammollatura. Molto lenta e viene fatta senza altre aggiunte se non l'acqua appunto di Mammola e della montagna della Limina. Poi diventa piatto calabrese, perché incontra le patate, incontra il pomodoro, incontra le olive, quindi viene trasformato in piatto mammolese, lo stocco alla mammolese appunto in umido con il pomodoro, le olive e le patate. Senta, quanti ristoranti ci sono a Mammola? Tanti, veramente tanti per essere un piccolo centro della provincia reggina. Sono oltre 14, le dico oltre perché ci sono alcuni ristoranti che sono stagionali, però chiaramente quelli che sono aperti tutto l'anno sono 14. E tutti hanno in menù lo stocco di Mammola? Tutti? Assolutamente sì, poi chiaramente negli anni non viene nei menù dei nostri ristoranti, non c'è solo stocco alla mammolese, ma ci sono tante rivisitazioni, per cui uno dei piatti principe è lo stocco ad insalata, quindi crudo, lavorato con olio, limone e quant'altro, ma poi viene anche lavorato con i funghi, viene lavorato con la ricotta affumicata, altro prodotto principe della tradizione enogastronomica mammolese, quindi diciamo che incontra poi tutti tutti quelli che sono i prodotti che appartengono al territorio e diventa un piatto più complesso. Bene, io la ringrazio, grazie, lo ripeto, stocco di mammola, quindi chi volesse farsi una scorpacciata veramente di stocco alla mammolese deve andare in questo paese in provincia di Reggio Calabria con ben 14 ristoranti che pongono lo stocco, diciamo, come primo della lista del menù. Ma ora voglio fare un volo lontano a Hong Kong da Riccardo Uleri, che è titolare di Longino e Cardinal, una società distributrice di alta gamma di prodotti in Italia, ma ora anche a Hong Kong, perché credo Uleri a Hong Kong, perché sono diventati tanti i ristoranti italiani importanti a Hong Kong. Assolutamente. Buongiorno. Sì, buongiorno Davide, buongiorno, mi sente bene? Sì, la sento benissimo. Sì, adesso la gastronomia Hong Kong è importantissima, veramente in assoluta espansione. Quindi servono prodotti di qualità? Assolutamente sì, altissima qualità, c'è molta ricerca, molta attenzione, è veramente un mercato in grandissimo sviluppo. Ecco Uleri, io la chiamo per questo, per parlare di baccalà o di stoccafisso, perché ormai diciamo parliamo di tutte e due, anche con il problema veneto dove lo stoccafisso viene chiamato baccalà, poi scopriremo perché. Ma io voglio chiederle, appunto, dicevo che il baccalà è diventata la cenerentola dei prodotti, perché da povero ormai è arrivato su tutte le tavole dei 3 stelle, 2 stelle, 1 stella, ma di quelli famosi, il che vuol dire che è un po' cambiato diciamo l'aspetto e l'identità di questo prodotto. E a lei le chiedo, ma lei distribuisce appunto un prodotto particolare che si chiama merluzzo nero, ecco, di che cosa si tratta? Ma merluzzo nero effettivamente non è più baccalà, nel senso che il baccalà come lo intendiamo noi è un prodotto che subisce un processo di salatura e dopo in questo di salatura per poter essere cucinato. Il merluzzo nero invece è un pesce che viene venduto fresco, diciamo un pesce che viene pescato in Alaska, tra l'altro ad altissime profondità, più di 200 metri di profondità, viene pescato, poi viene viscerato, diciamo pulito, fatto nel taglio senza testa, senza coda, viscerato e dopo congelato a bordo, però diciamo viene consumato dal ristorante così com'è, diciamo viene scongelato e cucinato, diciamo non subisce il processo di salatura tipico, diciamo, di quello che noi conosciamo come baccalà. Ecco, ma come spiega appunto che io, cioè, infatti volevo arrivare a questo, cioè volevo arrivare a far presentare il merluzzo anche come un qualcosa di diverso, perché tutti pensano appunto che tutto il merluzzo diventi tutto baccalà o stoccafisso, in realtà invece il merluzzo è un pesce che viene mangiato e oggi ha un pregio davvero importante, perché viene veramente, io l'ho assaggiato un paio di volte, sempre cucinato in maniera molto pregiata da chef importanti. Ma per tornare al baccalà o allo stoccafisso, voi distribuite anche questo però? Noi distribuiamo assolutamente baccalà, non stoccafisso, in questo caso baccalà, che è un prodotto praticamente, come dicevo, è Gados Morua, pescato ad Amo nelle isole in Islanda o nelle isole Faroe, dopodiché subisce un processo di salatura con sale secco e viene lasciato sotto sale 3 mesi. Dopo questi 3 mesi viene portato nel nostro caso in Spagna, un'azienda della provincia di Vittoria, un'azienda di Vittoria, lo dessala in questo caso e a noi lo vende già dissalato, quindi noi forniamo ai ristoranti il baccalà già pronto per essere cucinato, che come diceva giustamente lei quando ci siamo sentiti, il prodotto è diventato un prodotto famosissimo in altissima gastronomia, è diventato un prodotto nobile, da prodotto povero che era negli anni passati è diventato un prodotto invece d'alta gastronomia, subendo un processo di lavorazione molto più raffinato di quello di un tempo, quindi essendo prima tagliato nelle varie parti, poi essendo dissalato separatamente a seconda dell'altezza del filetto, eccetera, è diventato un prodotto di altissimo pregio per la alta ristorazione. Bene, abbiamo parlato di alta ristorazione, la ringrazio Riccardo Uleri e buon Hong Kong, perché io ora passo a uno chef importante che è Alfio Ghezzi di Locanda Margon di Ravina in provincia di Trento. Buongiorno Alfio. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, tu addirittura hai vinto un festival del baccalà con un prodotto molto particolare, quindi vuol dire che sicuramente ormai ci sono anche concorsi dove partecipano anche gli stellati. E allora, qual è una tua passione quella del baccalà? In realtà non era propriamente una passione, perché come avete detto prima, spesso in cucina si usava il baccalà, quello dissalato, e quindi anch'io ho usato per lungo tempo il baccalà dissalato, oppure usavo il merluzzo, il Gadus Morua, e mi facevo una fresca salatura, una salatura leggera da solo, quindi ogni chilo di filetto cospargevo ogni chilo di filetto con del sale grosso, lo lascio in questa salatura per 20 minuti, il sale ha chiaramente un effetto igroscopico, mi dava più consistenza alla carne e anche un po' più di sapore, quindi lo lavavo e lo cucinavo. L'occasione del Festival Triveneto del Baccalà, sebbene non mi abbia, come dire, spinto a cucinare il baccalà mantecato della tradizione, mi ha avvicinato a questo piatto di lunghissima storia, insomma. E quindi adesso noi abbiamo iniziato anche qui al ristorante a fare il baccalà mantecato, e in effetti sto aspettando il riconoscimento della Dogale Confraternita del Baccalà Mantecato di Venezia, perché attesti che faccio il baccalà secondo il disciplinare, insomma. Ecco, allora tu mi dai modo di ricordare che non esiste solamente la Confraternita del Baccalà alla Vicentina, ma esiste anche la Confraternita del Baccalà Mantecato, che è a Venezia, mentre l'altra la è a Vicenza. Sì. Poi c'è la Confraternita dello Stofis, che è trentina, insomma, mi sembra ci siano 4-5 confraternite. Quindi c'è un grande movimento di appassionati, sì, questo è il punto. Sì. Senti, ma tu avevi vinto con una elaborazione particolare del baccalà, se ricordo di averla assaggiata, sì, che si chiama Blanc de Blanc, se non erro. Sì, è vero. Come dire, intanto il regolamento diceva che il piatto doveva essere un piatto che non fosse quello della tradizione. Si poteva utilizzare il merluzzo fresco o il merluzzo dissalato, e quindi fare un piatto, come dire, più moderno rispetto a quello della tradizione. Noi abbiamo cercato di interpretarlo a nostro modo. Noi siamo abbiamo il ristorante a Trento, Trento è molto conosciuto anche per il Trento Doc, e quindi ho cercato di utilizzare il Trento Doc, le bollicine di Trento Doc nella ricetta. Bene. Quindi ho preso il merluzzo fresco, Gadus Morua, sfilettato, lo abbiamo salato, come vi dicevo prima, con sale grosso per 20 minuti, poi l'ho porzionato tenendo solamente la parte più alta, quella della schiena, e abbiamo fatto una cottura molto dolce nell'olio. Potrebbe ricordare un po' le cotture del Cantabrico, il pil-pil, insomma, le cotture che si fanno, perché cuoce nell'olio molto delicatamente. Bene, io ti devo interrompere, credo che sia già sufficiente questo per la ricetta, perché devo passare la linea alla regia. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare appunto di baccalà, di Stoccafisso. Abbiamo fatto un viaggio anche nelle capitali, appunto nelle capitali italiane, che impiegano storicamente questo prodotto, e diciamo che anche si è sviluppata una cucina molto molto particolare con a base questo prodotto, un tempo, lo ripeto, povero, oggi diventato ricco come nella favola di Cenerentola, perché ormai lo si trova anche con dei prezzi nei menù degli stellati abbastanza alti rispetto al passato. Bene, abbiamo parlato prima di baccalà e di Stoccafisso, e ora abbiamo con noi uno storico che si è occupato appunto di sciogliere i misteri del baccalà. Buongiorno Otello Fabris. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io Fabris volevo chiederle questo. Lei ha scritto appunto un libro, I misteri del ragno. La prima cosa che le chiedo è questa, di spiegare ai nostri radioascoltatori perché in Veneto si chiama baccalà lo Stoccafisso. È uno dei tanti misteri che ho cercato di esaminare con questo libro. L'ipotesi più plausibile potrebbe essere questa. Gli etimologisti dicono che la parola baccalao, da cui i veneti hanno imparato a usare il termine baccalà, si formi a Valencia nel 1519, in particolare il primo documento riporta questo termine, da cui le galee venete, i marinai veneti, hanno acquisito la parola e l'hanno portata a Venezia. Però in realtà molto prima che il baccalà arrivasse nel Veneto, nell'arsenale veneziano si costruivano le galee che avevano degli elementi costitutivi fuori poppa che chiamavano baccaladi ed hanno esattamente la forma di uno stoccafisso. Ecco, una delle ipotesi che io ho fatto è stata questa, che i veneti, vedendo lo stoccafisso, l'avessero confrontato con questi baccaladi che già conoscevano, e che quindi per loro il termine è rimasto baccalà anche per questi pesci bastoni. Infine, questi bastoni i latini li chiamavano bacula, quindi un termine molto prossimo a baccalà. Ecco, tra i tanti misteri c'è anche questo di Pietro Querini. È veramente lui che ha, così come Colombo ha portato Cristoforo con le sue caravelle, tanti prodotti che poi oggi sono considerati italianissimi, pomodoro ed altro. È stato poi veramente Pietro Querini, con, dopo aver naufragato, a portare il baccalà in Veneto? Sì, guardi, allora, le storie spesso volte suscitano delle verità che diventano leggende, o viceversa, leggende che diventano verità, e le dobbiamo tenere buone per quello che sono, perché le leggende soprattutto sono cose meravigliose. Certo, sono d'accordo con lei. In realtà, allora, Querini viene a scoprire come si produce lo stoccafisso. E ne porta il nome, l'idea della fabbricazione e dell'utilizzo a Venezia, questo sicuramente. Però prima di lui, fatalità, ci furono i fratelli Zen, 80 anni prima, che naufragarono in Atlantico e vengono a conoscenza, sempre dalle popolazioni vichinghe, dell'uso di pesce secco. Ecco, allora, pesce secco, stoccafisso. È il termine con cui i norvegesi ancora oggi chiamano lo stoccafisso, perché stockfish, certo. È un nome di origine tedesca. Ecco, loro lo chiamano torfisk, che vuol dire pesce secco. Quindi teoricamente ogni volta che noi nei documenti antichi troviamo la parola pesce secco, dobbiamo porci un interrogativo, che può essere stoccafisso. Bene, io con questo interrogativo la lascio, la ringrazio e ricordo il suo libro, per gli appassionati di baccalà, I misteri del ragno, documenti e ipotesi sulla storia del baccalà. Grazie Fabris, io ora vado e corro con gli ultimi minuti a Camaiore da Angelo Torcigliani, che è cuoco patron del Merlo, una gastronomia ristorante. Buongiorno Angelo. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. A te faccio una domanda secca, ma del baccalà è come per il maiale, si usa tutto in cucina? Si usa tutto, assolutamente, sì. Io cerco di usare tutte le parti, dalle guance alle teste intere, alla lingua, alle trippe, che poi sarebbe la vescica natatoria, che è molto viscosa e dà sempre alle preparazioni questa salsa densa, questa sua densa, diciamo, a tutti i piatti. Quindi c'è una duttilità incredibile in questo pesce, sì. da usare in cucina. È veramente come il maiale, si può riuscire a fare tutte le preparazioni con io per esempio ora faccio una zuppa con le trippe, il chiorizo e diciamo i ceci, più metto le altre parti, che ne so, io faccio uno spiedino con le guance e le lingue che poggio sopra così a mo' di guarnizione. È veramente interessante, ecco. Ma tu usi lo stoccafisso oppure dissali tu stesso il baccalà? No, io dissalo tutto io, in cella frigorifera, cambiando l'acqua tutti i giorni, per 7-8 giorni, dipende un po' i pesci. Io uso varietà di Gadus Murua islandese, pezzi che sono anche 8 kg, pesci veramente mostri marini, pensi che in un cartone ci stanno 4 pesci, sono 25 kg. Senti Angelo, in questi ultimi anni il prezzo credo che si sia incrementato notevolmente di questo pesce, visto il grande successo e la domanda di mercato. Ma secondo me giustamente, perché è un pesce a tutti gli effetti, perché voglio dire, un pesce così di allevamento deve costare, e magari un baccalà che è un pesce praticamente preso allo stato selvaggio, di una qualità estrema, deve costare meno. Era distrattato forse una volta, non so neanche come mai. C'è anche una bella resa, perché un baccalà in cucina rende parecchio, voglio dire, a livello di sapore, cioè si mangia un pesce che è ricco da sapore, alle salse, a tutto, ai condimenti, ecco. Senti, volevo chiederti questo, tu hai parlato appunto di una zuppa fatta con le trippe, quindi con l'interiore, ma c'è un modo che tu cucini, anche un modo classico, va ancora il modo classico il baccalà, quindi non so, servito con col pomodoro oppure servito... Sì, non in negozio, no, perché bisogna distinguere, cioè, la gastronomia dove il baccalà, diciamo, regna da fritto a marinato nel modo classico, tipo un carpione, però con rosmarino, aglio, peperoncino, e poi lo facciamo classico alla livornese, prima fritto e poi rimesso in una salsa a base di prezzemolo, aglio, pomodoro, e poi noi lo facciamo a Camaiore, che si chiama ammorzellato, una ricetta proprio tipica di Camaiore, è un baccalà del Cartesienne del Canada. Un baccalà secco, tipo uno San Giovanni. San Giovanni, esatto, che è in assoluto uno dei miei preferiti. E quello lo facciamo in un sugo di cipolle, di porri stufato, da servire con la polenta, fantastico, ecco. Ecco, una cosa volevo chiederti, tu lo vendi nel negozio, quindi, sì. Ma lo vendi anche crudo nel negozio? Noi lo vendiamo anche crudo, ancora abbiamo qualche cliente affezionato che una volta si vendeva molto di più, noi ora lo vendiamo parecchio corto, però ci abbiamo ancora qualche cliente affezionato che si rivolge a noi, perché i centri di ammollo, come una volta, sono andati un po', le botteghe che facevano quel mestiere lì di ammollare a caracceci il venerdì, ce ne sono sempre di meno. Ecco, abbiamo sentito proprio in apertura della trasmissione Pier Antonio Concato, che è questa bottega di Bassano del Grappa, dove lui, mi sembra da 80 anni, la sua famiglia non fa altro che ammollare e battere il baccalà, quindi credo che ancora esistano così qualche piccolo centro che è rimasto, perché ormai arriva tutto pronto e preparato. Grazie a Angelo Torcigliani del Merlo di Camaiore. Bene, abbiamo chiuso questo viaggio nel baccalà e nello stoccafisso, abbiamo anche sentito quale potrebbe essere l'origine e del perché in Veneto lo stoccafisso viene chiamato baccalà, proprio la terra diciamo principale di questo pesce, perché sicuramente il baccalà alla vicentina per tanti anni è stato un po', come posso dire, il piatto leader di questo prodotto, ma esistono appunto delle aree e dei territori in Italia dove è molto amato. Abbiamo sentito Mammola in provincia di Reggio Calabria, ma poi ce ne sono tanti altri che magari potremmo anche andare a scoprire. Però oggi chiudiamo questo appunto, questo bellissimo tour, e magari avremmo fatto venire voglia di mangiare il baccalà o lo stoccafisso, chissà. Io ringrazio Anita Panizza in redazione, Roberto in regia, vi do appuntamento la prossima settimana. Un buon weekend da Davide Paolini.